Il punto di Stefano Folli. Così il cerchio si chiude. Ieri sera Berlusconi è andato dal capo dello Stato e gli ha garantito la sua lealtà al governo di grande coalizione. Napolitano aveva chiesto la fine delle polemiche ed è stato accontentato, almeno per il momento. Come si era capito, la sentenza di Milano non produrrà effetti negativi sulla tenuta del governo Letta. Tutto sistemato, allora? Non proprio. I provvedimenti varati dall'esecutivo nel campo del lavoro e per il rinvio dell'aumento dell'IVA sono tutti da valutare. Sembra di capire che comporteranno in un modo o nell'altro un aumento della pressione fiscale. Quindi ancora una volta non si taglia la spesa e si finanziano le misure con nuove entrate. Per le larghe intese non è un gran risultato.